perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'attentatore di Londra era noto ai servizi britannici, dice la Premier May. 8 arresti questa mattina, operazione e controlli concentrati a Birmingham, 5 le vittime e un'italiana tra i feriti. Rafforzata la vigilanza in Italia, smantellata una cellula che faceva propaganda sul web, mentre Roma si prepara al vertice europeo tra grandi misure di sicurezza. Gli avrebbe gridato «Sporco negro, torna a casa», per poi picchiarlo, accoltellarlo, inseguirlo, investirlo con un'auto. È successo a Rimini ieri pomeriggio davanti ad un supermercato. Sciopero dei taxi in molte città italiane dopo il mancato accordo di ieri, cortei a Napoli e Roma, ma non tutte le sigle sono d'accordo. Il governo attende la controproposta. Esplode una fabbrica di armi in Ucraina, 20.000 evacuati. Secondo Kiev è stato un sabotaggio. Intanto nella capitale ucciso un ex deputato russo, nemico di Putin. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta, andremo in diretta ormai come ogni giorno per tutta la trasmissione, www.facebook.com/effettogiorno, siamo in diretta anche sulla pagina di Radio 24, se volete potete scrivere i vostri commenti, i vostri appunti, le vostre idee, anche là naturalmente. In apertura, naturalmente, andiamo a Londra. Iniziamo a fare un punto della situazione dal punto di vista della cronaca e delle indagini. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, io vi riferisco quello che questa mattina la Premier britannica Theresa May ha detto alla Camera dei Comuni, sottolineando innanzitutto proprio questo aspetto di essere lì nella Camera dei Comuni. Come abbiamo fatto per generazioni, ha detto, anche oggi siamo qui riuniti nel più antico dei parlamenti, quindi un segnale di forza, di resistenza. Delle indagini ha confermato sostanzialmente le informazioni che erano state date in precedenza da Scotland Yard. Si è lavorato tutta la notte. Ci sono state delle perquisizioni tra Londra, Birmingham e altre località con 7 arresti. Al momento sono saliti a 8. Sentiamo cosa dice la May poi. What I can confirm is that the man was British born. Non rivela il nome del terrorista, ma dice che era nato in Gran Bretagna e che la polizia, l'MI5 e i servizi di sicurezza ne conoscono l'identità. Era finito sotto indagine una volta per violenze estremiste, ma era una figura marginale. Ora, dice ancora May, era fuori dai radar, non si aveva sentore dei suoi piani. L'ipotesi di lavoro è comunque quella del terrorismo di matrice islamica, senza che però ci sia la possibilità ancora di confermarla. Tutti i livelli di sicurezza, dice la Premier, sono stati innalzati, non sono al massimo perché non c'è ragione di temere che ci saranno nuovi attacchi. E poi la reazione della macchina. La macchina ha reagito bene, aveva detto poco prima di lei in una conferenza stampa il vice capo della polizia di Londra, Mark Rowley. Sentiamolo. The work we've done over many years. Siamo preparati per anni a scenari come questo, purtroppo, ha detto Rowley, ma nulla può preparare persone e famiglie a situazioni come quella che abbiamo visto. Simone, come dicevi, le vittime sono 5, tra i feriti una italiana, a questo punto chiarito dalla Premier May direttamente ai comuni. E grazie a Laura Bettini per questo aggiornamento. Veniva da Birmingham, dunque, da quel che abbiamo appreso, l'uomo che ha colpito. Birmingham, nelle West Midlands, a nord di Londra, è stata al centro dell'attenzione proprio per questioni che riguardano lo jihadismo negli ultimi anni. Sentiamo. Non può essere un caso. Ancora una volta l'attenzione degli investigatori britannici che indagano sull'attentato a Westminster si è concentrata sulla capitale delle West Midlands, seconda città del Regno Unito. Birmingham ospita la più grande comunità musulmana della Gran Bretagna, circa 300.000 persone, un cittadino su 3. Il raid dell'altra notte che ha portato all'arresto di 3 persone, altre 4 sono state bloccate a Londra e nel resto del paese. Bradford, Wolverhampton, Portsmouth, il sud-est della capitale, dove tanti episodi di violenza sono già stati registrati, probabilmente sì, anche se gli inquirenti non confermano, ma sono tutti centri ad altissima densità di popolazione musulmana. Ma la ricorrenza di Birmingham nelle indagini di Scotland Yard sul terrorismo non ha uguali. Le dimensioni della città lo giustificano, ma non solo. Qui è scoppiato anni fa lo scandalo del cosiddetto cavallo di Troia, ovvero il complotto presunto per radicalizzare decine di scuole pubbliche della città, emarginando gli insegnanti laici, per installare alla guida degli istituti docenti con impronta islamica fondamentalista. piano sgominato, ma conferma, se necessario, che nelle pieghe di una comunità che resta operosa e radicata sul territorio britannico cresce la spinta che favorisce il terrorismo, cominciando anche dalle scuole. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Le notizie arrivano anche dall'Italia, dove una cellula terroristica che faceva proselitismo via web è stata smantellata dalla polizia in un'operazione che ha portato all'arresto di 4 persone, in manette 3 tunisini, un marocchino, che operavano tra Perugia, Milano e la Germania. E con l'allerta terrorismo saranno giornate difficili per le forze dell'ordine, soprattutto a Roma, dove a questo si mescola l'allarme per le manifestazioni previste per il vertice europeo. Veniamo di fare un punto, Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così anche l'ufficiale di collegamento di Scotland Yard a Roma ha partecipato questa mattina alla riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo che si è svolta al Viminale dopo l'attentato di Londra. Naturalmente l'attenzione resta alta anche nel nostro paese, si è deciso di intensificare la vigilanza attorno a quelli che vengono chiamati gli obiettivi sensibili e c'è massima allerta anche da parte dei nostri servizi di intelligence. Il ministro dell'Interno Minniti ha chiesto poi di rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone proprio in vista delle celebrazioni per i trattati di Roma in programma sabato. La capitale, lo sappiamo, si sta preparando ad un weekend difficile perché, come stiamo raccontando ormai da giorni, oltre alla minaccia, questa nuova minaccia terroristica, c'è il timore di infiltrazioni di black bloc, diciamo di frange violente, soprattutto nel corteo anti-europeista organizzato da centri sociali, movimenti antagonisti e sindacati di base. Il centro storico della capitale per questo sarà di fatto blindato, ci saranno due zone di sicurezza e ci saranno oltre 5.000 uomini delle forze dell'ordine in campo sia per scortare le varie delegazioni europee sia per garantire l'ordine pubblico. Simone. E grazie dunque ad Andrea Viali, almeno per il momento. Con Andrea torneremo a collegarci più avanti per tornare a fare un punto sulla capitale, sarà una delle tappe del nostro giro per l'Italia, ne parleremo con lui e ne parleremo anche con l'Associazione dei Commercianti di Roma, che è notevolmente preoccupata per quello che potrebbe succedere in questo fine settimana. Fine settimana che però, come sapete, è anche un fronte politico, che è un fronte politico europeo. Beh, si cerca di trovare un accordo che sembra sempre più difficile. Sentiamo. Il testo è pronto, chiuso e saranno possibili da qui a sabato solo piccole limature, fanno sapere fonti diplomatiche. Una dichiarazione breve, senza fronzoli, il testo che i 27 firmeranno in Campidoglio sabato, 60 anni dopo la firma dei trattati, quelli che diedero poi vita all'Unione Europea. La nostra Unione è indivisa e indivisibile, si legge nel testo che gli Sherpa hanno messo a punto ieri sera a Bruxelles, una frase aggiunta nelle ultime ore per venire incontro alle resistenze della Polonia e degli altri paesi dell'est al concetto di Europa. Più velocità. Noi agiremo insieme ad andature ed intensità diverse dove necessario, ma andando nella stessa direzione. Cooperazioni rafforzate più che multivelocità, dunque. Un concetto, quest'ultimo, che è andato via via sfumando, prima con le modifiche apportate il 20 marzo e poi ancora con quelle di ieri sera. Resterebbe però ancora la riserva della Grecia, che vorrebbe rassicurazioni sulla seconda revisione del suo debito pubblico, questione strana ai temi della dichiarazione e che comunque si conta di riuscire a superare. E a Bruxelles nessuno pensa che il premier greco Tsipras arrivi davvero a negare all'ultimo momento la sua firma. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E in questo clima romano che precede l'appuntamento per le celebrazioni per i 60 anni della firma dei trattati, c'è anche a pesare lo sciopero dei taxi, che naturalmente non riguarda solamente la capitale ma molte altre città. L'incontro di ieri, come sapete, non è andato bene, non c'è accordo tra governo e tassisti, sentiamo. Iniziato alle 8, lo sciopero nazionale dei tassisti si concluderà alle 18 e i disagi hanno già cominciato a sentirsi. Pochissimi taxi operativi a Fiumicino, mentre è tutto fermo il servizio all'aeroporto di Ciampino. Auto bianche ferme anche in stazione centrale a Milano, taxi fermi anche a Napoli. Ci sono poche auto in giro perché i tassisti hanno paura di ritorsioni da parte di chi sta facendo lo sciopero, racconta Loreno Bittarelli, leader di Uritaxi, sigla che non aderisce allo sciopero, assieme a Uri, Casartigiani e Confartigianato. Una abbiamo aderito sin dall'inizio, ma perché c'è un tavolo aperto col governo. Tra l'altro ieri sera c'è stata consegnata una bozza di decreto interministeriale che secondo noi è da fare alcune precisazioni, però insomma sono contenuti dei principi importanti che noi abbiamo sempre sostenuto, quali la territorialità delle licenze, quali l'obbligo del rientro in rimessa per il noleggio con conducente e il divieto di stazionamento in suolo pubblico. Vorremmo domandare semmai a quelli che hanno scioperato questa sera che cosa avranno ottenuto, visto che l'incontro con il ministro c'è stato ieri. Dunque, i negoziati al Ministero dei Trasporti con la presentazione di una bozza di decreto in 5 punti non hanno portato a traguardi condivisi. Non ci sono le garanzie per dare tranquillità ai lavoratori, spiega Alessandro Azzeni della Will Trasporti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Rimini adesso, dove c'è stata quella che sembra chiaramente, almeno da quel che si sa, da queste prime indagini, un'aggressione razzista. Insultato, picchiato, accoltellato e quindi investito con la macchina. E quanto è successo ieri a Rimini a un richiedente asilo nigeriano di 25 anni che ora è ricoverato in terapia intensiva. Ha fratture multiple, la milza spappolata e varie emorragie interne, ma ha superato la notte ed ora si spera possa farcela. A conciarlo così un italiano con diversi precedenti, Davide Ercolani, 39 anni, romano ma residente a Rimini. Rintracciato, grazie alla targa dell'auto, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi e da motivi razziali. Stando alle prime ricostruzioni, le indagini sono ancora in corso, l'uomo ha prima insultato il nigeriano intimandogli di tornare a casa sua, quindi lo ha preso a calci e pugni, poi con un coltello lo ha colpito all'addome. Quando il ferito ha tentato di fuggire, l'italiano è salito in auto, l'ha inseguito e quindi investito lasciandolo a terra insanguinato. Il giovane nigeriano è arrivato in Italia sbarcando in Sicilia settembre scorso, è di religione cristiana e ha presentato istanza per l'asilo politico. Per lui, che lotta tra la vita e la morte, il questore di Rimini sta valutando il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il tentato omicidio razziale è una macchia di disonore per la nostra Rimini, che ha fatto dell'accoglienza e dell'apertura alla propria bandiera, ha scritto l'assessore regionale al bilancio e pari opportunità Emma Petiti. Convocata per oggi alle 18 dal comune una riunione operativa. Lo scopo? Organizzare una grande manifestazione antirazzista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Ucraina adesso, dove è esploso un deposito di munizioni. L'ipotesi è quella di un atto di sabotaggio, mentre a Kiev viene ucciso in una sparatoria un ex deputato del Parlamento russo. Sarebbero state almeno 2 le esplosioni in 2 diversi punti all'interno di un deposito di munizioni nella base militare nella zona di Balakleia, nell'Ucraina orientale. I servizi di sicurezza parlano del rombo di un velivolo simile a quello di un drone poco prima dei boati e per questo motivo è stata aperta un'indagine con l'ipotesi di sabotaggio. La base si trova a circa 100 km dalla zona dei combattimenti contro i separatisti filorussi. Nel capannone, già obiettivo di un tentativo di incendio nel 2015, si trovavano missili e artiglieria per rifornire le unità che operano nelle zone di conflitto. Nessuno sarebbe rimasto ferito nell'esplosione, ma le autorità stanno mettendo in sicurezza gli abitanti dei vari villaggi della zona, con l'evacuazione di circa 20.000 persone. La tensione rimane alta anche a Kiev, dove in pieno centro c'è stata una sparatoria che ha provocato 2 morti. Una delle 2 vittime, secondo il capo della polizia della capitale ucraina, è l'ex deputato della Duma russa Denis Foronenkov, ex parlamentare fuggito in Ucraina, destinatario in patria di un procedimento penale aperto nei suoi confronti dalle autorità russe, da lui aspramente criticate. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade mentre siamo e rimaniamo in diretta, oltre che sulle frequenze di Radio 24, anche sulla nostra pagina Facebook, oltre che sulla pagina Facebook di Radio 24, www.facebook.com/effettogiorno, dove ci potete anche vedere e scrivere. Ci state scrivendo parecchio anche sugli attentati di Londra, magari daremo qualche risposta anche su questo, non solamente appunto su Facebook, ma anche al numero di SMS e WhatsApp. Inizieremo il nostro giro per l'Italia. Allora, ieri abbiamo cercato, sulla scorta delle accuse che sono arrivate dal procuratore di Catania alle ONG che operano nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti, abbiamo cercato di raggiungere qualcuna di queste ONG. Ieri non ce l'abbiamo fatta perché le accuse del procuratore sono arrivate, diciamo, piuttosto tardi e i tempi tecnici per raggiungere qualcuno sono stati, insomma, non sono stati bastanti. Oggi lo faremo e parleremo con una di queste ONG per cercare di comprendere quanto ci possa essere di vero nelle accuse che vengono mosse dal procuratore per quella che non è un'indagine. Le accuse sono tra l'altro di mettere in scacco la lotta al traffico di migranti. E poi una vicenda che arriva da Trapani, dove c'è un tour operator che offre un mafia tour, un giro tra i luoghi della mafia, facendo imbestialire l'amministrazione locale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della vicenda, naturalmente, degli attentati di Londra, con l'attentatore che abbiamo preso era noto ai servizi britannici, lo ha detto la stessa Premier Theresa May nell'audizione in Parlamento. Ci sono stati 8 arresti questa mattina, operazioni e controlli che sono concentrati soprattutto a Birmingham, 5 le vittime e un'italiana tra i feriti. Abbiamo parlato del rafforzamento della vigilanza a Roma e ci torneremo tra un attimo. Abbiamo parlato di un caso di un tentato omicidio a sfondo razziale, un nigeriano di 25 anni che è stato picchiato, accoltellato, poi inseguito e investito con un'auto, e poi ovviamente dello sciopero dei taxi. Prima di passare alla prima tappa del nostro giro per l'Italia, che in realtà è una tappa un po' larga che ci porta, per così dire, nel Mediterraneo, nel cosiddetto canale di Sicilia, un paio di risposte agli sms. Innanzitutto sulla vicenda di Rimini, Stefano ci scrive via WhatsApp e si lamenta dicendo: ma quindi se avesse massacrato un italiano avrebbe preso una condanna minore? Lo snodo non è quello, Stefano, lo snodo è l'averlo fatto esattamente per motivi razziali, aver picchiato una persona dopo avergli detto sporco negro torna al tuo paese. Questa è chiaramente un atto razzista, e c'è un aggravante appunto perché la cosa è razziale. Per quanto riguarda invece gli ascoltatori che ci scrivono, a proposito degli attentati di Londra, a quanto pare il poliziotto che è stato ucciso non era armato al momento, il poliziotto che è stato ucciso dall'attentatore a coltellate. Infine il tema dell'integrazione, ce lo scrivono in molti, sarà molto contestabile il tema dell'immigrazione, molto spesso lo contestate il tema dell'integrazione con le popolazioni musulmane. Vi invito solamente a ricordare che l'attuale sindaco di Londra è di religione musulmana e si chiama Sadiq Khan, è un pakistano perfettamente integrato e che ieri, subito dopo gli attentati, ha detto: i terroristi non distruggeranno il nostro stile di vita, il nostro, quello di noi europei tutti quanti, lui compreso. Valeria Calandra, presidente di SOS Mediterranei Italia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, oggi le pagine dei giornali ne sono piene e ieri ne abbiamo parlato anche in trasmissione, anzi ci abbiamo aperto con queste accuse molto dure del procuratore di Catania nei confronti di una serie di ONG, organizzazioni non governative, che operano nel Mediterraneo, nel cosiddetto canale di Sicilia, anche se l'espressione è sbagliata, perché poi si arriva, no, al confine spesso con le acque territoriali libiche e a volte addirittura anche più lontano, e dice, insomma, la sostanza la riassumo con il titolo che ha scelto la stampa per parlare di questo: le ONG facilitano gli scafisti. In sostanza dice: dobbiamo registrare una sorta di scacco che la presenza delle organizzazioni non governative provoca all'attività di contrasto. Voi siete una di queste organizzazioni non governative, avete una nave che batte nel Mediterraneo e che ha salvato quante persone dall'inizio dell'anno? 10.000 persone dall'inizio dell'anno scorso? Circa? Dall'inizio dell'anno scorso sono circa, sì, circa 10.000 persone. 10.000 persone circa, una nave che si chiama Aquarius e che appunto opera dal febbraio dell'anno scorso. Che cosa rispondete all'accusa del procuratore? Ma intanto io non vorrei considerare quello che ha detto il procuratore, dire che siano proprio delle accuse. Io penso che il procuratore, se in questo momento sta facendo questi accertamenti, avrà le sue buone ragioni. E noi vogliamo sperare che non si tratti di accuse, ma semplicemente di diciamo adempimenti a quello che sono le sue attività di controllo e di conoscenza. Rispetto al fatto che noi, diciamo, siamo noi che mettiamo sotto scacco l'attività degli organizzatori, diciamo, di contrasto agli organizzatori di questo traffico allucinante di migranti che giornalmente si perpetra nel Mediterraneo, mi sorprende francamente che la nostra missione, che è quella di salvare vite umane, possa essere considerato un ostacolo. Lo dico molto brutalmente, Calandra, il tema sì. È l'accusa che vi viene fatta è di essere un po' dei chiamiamoli così, l'espressione è brutale, dei tassisti per conto degli scafisti, nel senso che vi trovate al posto giusto, nel momento giusto, il che consente naturalmente di salvare delle persone, di non farle morire in mare, e da quel lato ci siamo, ma dall'altra parte consente agli scafisti di fare il loro mestiere con una maggiore tranquillità, mestiere per modo di dire ovviamente. Che il posto sia giusto e il momento giusto è molto opinabile. Il posto è quello che riusciamo, quando riusciamo a raggiungere le imbarcazioni che chiedono l'SOS. L'SOS viene lanciato dalle imbarcazioni, viene raccolto dalla Guardia Costiera, che ci dice, ci chiede dove siamo, e se siamo in zona noi cerchiamo di raggiungerli. Ecco, mi scusi Calandra, l'accusa del procuratore da questo punto di vista è abbastanza precisa, dice un po' troppo spesso le navi delle organizzazioni non governative si trovano nel posto giusto esattamente nel momento nel quale c'è da raccogliere questo SOS. No, non penso che lui possa essere così preciso. Se lo è, evidentemente avrà dei dati per dirlo, ma questo non posso certamente saperlo io. Io quello che le posso dire è che noi andiamo avanti e indietro nel Mediterraneo perché siamo consapevoli che il rischio è ovunque e in qualunque momento che ci siano dei barconi in condizioni di stress o quantomeno in difficoltà. Calandra, mi scusi, vogliamo qua far cadere un mito, nel senso che ci sono molti ascoltatori, perché in tutti i dubbi che ci sono su questa vicenda ci sono anche dei dubbi degli ascoltatori che dal loro punto di vista giustamente dicono, ma perché non li riportano in Libia o in Tunisia, magari porti vicini più sicuri, proprio perché non sono considerati porti sicuri e il diritto del mare è molto preciso da questo punto di vista, no? Sì, sì, il diritto del mare è assolutamente preciso e le condizioni di sicurezza non sono, cioè quelle che vengono considerate le condizioni per giudicare un porto sicuro non sono poche. E certamente i porti libici non lo sono affatto, non li riporteremmo mai in quell'inferno da cui fuggono, e altri porti che potrebbero essere sulla strada come Malta o la stessa Tunisi non offrono tutte quelle garanzie che porti come quelli italiani possono offrire. E quando parlo di garanzie non parlo solo di garanzie per i migranti, ma parlo anche di garanzie per noi. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo delle organizzazioni che controllano le persone quando arrivano, cosa che in altri paesi probabilmente non succede. E comunque certamente l'Italia è da non da ora, perché adesso sta esplodendo questa cosa in modo incredibile, ma l'Italia sono anni e anni e anni che offre questa possibilità di accoglienza, e questa possibilità di accoglienza è sempre stata monitorata dalle istituzioni che sono preposte a questo compito. Qua c'è qualcuno adesso, perché ci sono dei dubbi, ci sono delle procure che stanno indagando anche se non hanno aperto delle indagini formali, ci sono una serie di sospetti, dico agli ascoltatori, non è che le possono riportare, come fanno a portarli in Germania? Adesso non esageriamo, insomma, no, non ci si può nemmeno arrivare in nave in Germania. Questo giusto per essere chiaro, per rimettere le cose a posto, perché non è che è tutto così. Ci chiedono gli ascoltatori i sistemi di finanziamento. Una nave come la vostra costa tra i 9 e gli 11 mila euro al giorno, il che no, fa una bella cifra nell'arco dell'anno. Sì, indubbiamente le spese sono altissime e ci sono anche le motivazioni dietro questa enorme spesa. In una nave già di per sé in navigazione costa, chi è nel settore lo sa bene, costa moltissimo per tutto ciò che riguarda proprio gli approvvigionamenti, i rifornimenti e tutto questo genere di cose. Non ci dimentichiamo che a questo noi dobbiamo aggiungere una considerevole dei costi considerevoli per accogliere tutta questa gente, perché è proprio vero che la prima accoglienza la facciamo noi nel momento in cui salgono sulla nave. E questi soldi da dove arrivano? Allora, i soldi arrivano, per quanto riguarda SOS, sono tutti soldi di donazioni che provengono o da privati, quindi dalla società civile, diciamo così, attraverso piccoli versamenti, contributi, tutto quello che è possibile. La gente poi dà di tutto, non solo soldi, dà anche beni, diciamo, no? Sì. Cioè, ci sono ditte che certe volte ci regalano i salvagenti piuttosto che le coperte, cioè c'è un po' di tutto. E poi una parte dei soldi arrivano anche, per esempio nel caso dell'Italia, arrivano, abbiamo ricevuto anche da parte di alcune banche, da una veramente in particolare, abbiamo ricevuto dei fondi. Ma i fondi sono all'interno di quello che è la normale attività di supporto alle associazioni umanitarie che operano in questo campo, in questi campi. Sì, allora questa l'ultima domanda, mi scusi, l'ultima domanda che ho da farle, Calandra, è questo: il IPM di Catania o altre procure che stanno indagando su questa vicenda vi hanno convocati oppure no? O avete intenzione di andarci voi? No, loro non ci hanno ancora sicuramente convocati, almeno fino ad oggi non è arrivata nessun tipo di convocazione. Noi l'abbiamo già detto in altre sedi e lo continuiamo a ripetere, siamo pronti e disponibili a qualsiasi colloquio fosse necessario. Penso che ci sia abbastanza trasparenza sia sui nostri social ma anche nelle nostre carte e quindi non abbiamo problemi a metterle su un tavolo. Dopodiché dico... penso che al di là di qualunque critica possa essere fatta alle nostre associazioni, in particolare a quella che io rappresento, noi ci siamo dati un obiettivo, l'obiettivo stiamo cercando di perseguirlo e francamente non vorremmo farci fermare da chi strumentalmente sta adoperando situazioni umane difficili per respingere sostanzialmente quello che noi stiamo cercando di fare con il salvataggio di questa gente. Non mi riferisco chiaramente al procuratore che deve, ripeto, fare quello che è giusto che faccia, ma mi riferisco ad esempio a situazioni come quelle di questi blogger che lanciano allarmismo e inutili pressioni su chi già è abbastanza saturo e ha voglia di trovare la scintilla per far scattare, fare scoppiare questo genere di situazioni, francamente imbarazzanti. La ringrazio, grazie Valeria Calandra, che si è riferita in quest'ultima fase a Donadel, che come avete sentito è stato ospite ieri di 24 Mattino. Se vi volete riascoltare la trasmissione insieme ad un'altra persona di un ONG, MOAS, che appunto porta le persone dal mare ai porti italiani. Il nostro giro per l'Italia in realtà non ci porta molto lontano in questa seconda tappa, ma ci porta sempre in Sicilia. Immergetevi nel mondo drammatico della mafia siciliana in questo tour speciale guidato. Visitate alcuni dei luoghi più interessanti e famosi legati alla storia della mafia siciliana. E questo è una proposta di tour fatta da Easy Trapani, che sta facendo imbestialire i vertici politici della città. Abbiamo il responsabile di Easy Trapani, che è questo tour operator, questo organizzatore di tour nella città, Gianni Grillo. Buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Non è un po' troppo? Fare un mafia tour, no, non è troppo, anzi se ne dovrebbero fare di più e dovrebbe essere una forma di servizio pubblico in tutte le città della Sicilia o determinati luoghi. È molto interessante, per esempio per i giovani chi fa la scuola media o le scuole superiori, e scoprire quelle che sono le sfaccettature della mafia qui in Sicilia. Se uno è uno studente di scienze politiche, sì, viene in Sicilia, ci sta per un mese, è logico che si può interessare ad approfondire la tematica della mafia come un approfondimento della Sicilia dal punto di vista culturale, nel senso sociologico ed economico e antropologico. Antropologico, però capirà insomma che qualche perplessità la suscita anche per come la presentate, devo dire la verità, insomma. Poi è chiaro che ci sono anche degli elementi di antimafia all'interno, lo ricordate, no? Entrambi i tour potranno includere anche altre attrazioni, come ad esempio un incontro con un giornalista o altra persona coinvolta nella resistenza contro Cosa Nostra, appunto attrazioni. Però insomma il sindaco di Trapani dice, e l'amministrazione comunale dice, è un'offesa alle vittime questa cosa qua. No, non penso sia un'offesa alle vittime il fatto che si educhi sulla cultura e si informi su quello che è effettivamente è Cosa Nostra, quello che è stato Cosa Nostra fin dalla sua nascita fino ad oggi per la Sicilia. Mi scusi, no, l'ignoranza va bene, però leggo qua. L'ignoranza visiterete più di un luogo, scoprirai le città di origine delle famiglie siciliane mafiose più affermate o scenari di alcuni tra i più drammatici eventi correlati alla mafia. Non lo so, è una presentazione un po', se mi permette, no? Un po' sul filo della geografia, sì, perché è anche un'occasione di visitare la Sicilia occidentale, in questo caso dal punto di vista paesaggistico, perché se noi ci muoviamo da Trapani e per esempio facciamo la strada lungo la costa nord-occidentale, il primo punto che troviamo è Pizzolungo, dove lì vi è una statua che rappresenta una donna con due bambini che sono dei martiri della mafia. E se si viene a visitare la Sicilia, si passa da lì, diciamo che non si sa qual è il simbolo e il significato di quel monumento. E quindi è importante per chi passa dalla Sicilia occidentale conoscere anche determinati luoghi che sono diciamo molto fondamentali per la comprensione anche dal punto di vista dell'antimafia. Sa che chiedono l'oscuramento del vostro sito addirittura, no? Sì, va bene, ora tu mi puoi oscurare il sito che parla dove c'è dentro questo mazzaturo che è stato interpretato. Senta, ma nella presentazione del tour, c'è anche la gente, c'è un turista con la foto con il grembiule del padrino e il coltellaccio in mano. Non lo so. E che ci puoi fare? Da questi stereotipi il mafia tour serve a comprendere che mafia non è quella versione romantica della vita raccontata da Francis Ford Coppola nella trilogia del padrino. Quindi vengono in Sicilia della mafia. Hanno l'immagine solo dei film del padrino, quindi Don Corleone, eccetera. Invece si viene in Sicilia, ci possiamo stare anche in un soggiorno di una settimana, ed un bel giorno, una mezza giornata la dedichiamo a Corleone, andiamo a visitare il Citma e impariamo dalle parole dei corleonesi quanto male e negativa è la mafia. Va bene, quindi in realtà ci dice un tour antimafia sostanzialmente. Grazie Gianni Grillo per essere stato con noi di Easy Trapani. Registriamo anche l'abbia il sindaco, non abbiamo il tempo per ospitarlo, sindaco che ci aveva detto ragazzi vorrei intervenire anch'io per controbattere, come ha sentito, insomma abbiamo dato ampia voce a quella che è la comunità di Trapani. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo, il nostro giro per l'Italia riprende da Roma che si prepara a giornate campali a quanto sembra. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. In apertura i nostri titoli, appena arrivata la rivendicazione dell'ISIS per l'attacco di Londra che ha portato a 5 vittime, c'è un'italiana tra i feriti, 8 arresti questa mattina, si è appreso che l'attentatore era noto ai servizi, lo ha detto la Premier May. È stata rafforzata intanto la vigilanza in Italia, smantellata una cellula che faceva propaganda sul web, mentre Roma si prepara al vertice europeo tra grandi misure di sicurezza. Gli avrebbero gridato sporco negro torna a casa per poi picchiarlo, accoltellarlo, inseguirlo, investirlo con l'auto, è successo a Rimini ieri pomeriggio. Sciopero dei taxi in molte città italiane dopo il mancato accordo di ieri, cortei a Napoli e Roma, ma non tutte le sigle sono d'accordo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video. Prossima tappa del Giro per l'Italia è inevitabilmente Roma che si prepara a un fine settimana piuttosto intenso, soprattutto la giornata di sabato per il vertice europeo, la celebrazione per i 60 anni della firma dei trattati di Roma. Dunque torniamo a fare un punto sulla capitale con il nostro Andrea Viali. Andrea, vai. Eh sì, è proprio così, Simone, un weekend difficile per Roma perché oltre ai timori legati ai Black Bloc che potrebbero infiltrarsi nei cortei in programma sabato, adesso c'è anche questo nuovo allarme terrorismo dopo l'attentato di Londra. Tra l'altro stamattina al Viminale si è riunito il comitato di analisi strategica antiterrorismo, si temono un po', diciamo, in questo momento degli atti emulativi, per questo l'attenzione anche nel nostro paese resta alta e si è deciso di intensificare la vigilanza attorno ai cosiddetti obiettivi sensibili, ma non solo, perché il ministro dell'Interno Minniti ha chiesto anche di rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree di maggior afflusso di persone. Questo, come dicevamo, in vista soprattutto delle celebrazioni per i trattati di Roma. In questo caso, lo abbiamo detto, i timori sono legati soprattutto a possibili infiltrazioni da parte di frange violente, in particolare nel corteo anti-europeista che è stato organizzato dai centri sociali, dai movimenti antagonisti e dai sindacati di base. Per questo sono stati previsti dei controlli sui manifestanti in arrivo in città. Poi tutto il centro storico di Roma sarà di fatto blindato, ci saranno due zone di sicurezza, verrà istituita una no-fly zone, il divieto di sorvolo sul centro storico, e ci saranno oltre 5.000 uomini delle forze dell'ordine in campo per garantire sia l'ordine pubblico sia per scortare le molte delegazioni europee che prenderanno parte a queste celebrazioni. Simone. Grazie ad Andrea Viali per questo punto, e siamo in linea, anche se abbiamo pochi minuti, con Renato Borghi, che è commissario Confcommercio Roma e Lazio e anche vicepresidente di Confcommercio Nazionale. Buongiorno Borghi, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, succede questo, succede che è una città blindata, ormai ci siamo abituati, ma secondo me non dovremmo abituarci mai, al fatto che dovrete di fatto tirar giù le serrande perché non si sa mai che cosa può succedere, no? Ma certo, guardi, c'è una forte preoccupazione ma anche un'esasperazione, perché vede, chi non lavora il sabato o chi non lavora proprio perché non ha vocazione per questa pratica sarà a Roma coi fischietti, e speriamo solo coi fischietti, a protestare, mentre noi che vorremmo poter lavorare e continuare a dare un servizio ai cittadini e ai turisti saremo costretti o a non poterlo fare o a farlo con l'ansia e la paura per noi stessi e per i nostri collaboratori. Insomma, io penso che vada garantito non solo il diritto a protestare ma anche il diritto a lavorare, penso che sia un diritto costituzionale. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo costituito una rete di WhatsApp con 120 nostri soci dislocati lungo tutto il percorso che sarà interessato alla manifestazione, proprio per poter avvisare i colleghi più distanti a poter sì. Nel momento caso. Nel quale si scatenasse qualcosa, state pronti, come dire, a tirar giù le serrande. In 20 secondi, Borghi, se ci riesce, perché siamo veramente in chiusura. Sì. C'è stato qualche difetto di coordinamento con governo, prefettura e via dicendo? No, al momento no, anzi noi partecipiamo alle 3 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine convocato dal prefetto, siamo in contatto con loro. E d'altronde credo che loro abbiano l'esperienza per gestire situazioni di questo tipo. A noi resta la preoccupazione, ma insomma tiriamo avanti, siamo abituati purtroppo a stare di fronte anche a queste sì, cose. Sì, scottati magari anche dai fatti del 2011, vogliamo certo, ricordare. È un ricordo ben vivo. Un ricordo certo, ben vivo per certo. Tutti voi. Grazie Renato Borghi, che è commissario appunto di Confcommercio Roma e Lazio, c'è anche evidentemente questo aspetto. In bocca al lupo ai commercianti, così come a tutti i romani, e speriamo che sabato sia una giornata tranquilla. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.